Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. E allora, eccoci, cari ascoltatori, caro Oscar Giannino. Caro Alessandro, caro ascoltatore, è iniziato dicembre. È iniziato dicembre, si sente il freddo per fortuna. E pensa che il calendario liturgico ci riserva un'ora onesto. Forse anche in altri tempi dovevano sottolineare che quando si aveva a che fare con i materiali preziosi, meglio mettere i santi onesti, perché anche gli uomini di chiesa possono cadere. Sant'Eligio. Ah, Sant'Eligio. Un'ora fa onesto, che poi diventa vescovo. Un'ora fa onesto. Perché pensa che siccome il re gli dicevano mi devi fare un trono d'oro, lui con quella quantità d'oro ne fece due al re Clotario. E re di non te ne sei fregato la metà, e infatti poi è diventato vescovo e santo. Ma la cosa incredibile è che era onesto pur maneggiando l'oro. Si capisce da alcune intercettazioni recenti che insomma è stato un problemino. Ah no, sempre. Pensavo all'intercettazione ai tempi di Sant'Eligio. No, non c'era niente. Allora, come oggi, meglio sottolineare che gli uomini di chiesa che maneggiano l'oro possono essere onesti. Possono. Allora, uomini di chiesa, 800 24 0024 è il numero di telefono per intervenire. Come sempre ci sono tante notizie sui giornali. Noi ci concentreremo anche su quello che sta succedendo a Livorno, caro Oscar, perché c'è una municipalizzata dei rifiuti che affonda i debiti e c'è un sindaco che ha delle soluzioni che penso che prende ci una decisione inconsueta rispetto a quella che prendono i suoi colleghi. Cioè non si limita a dire che questo ripianiamo, no, hanno gli altri accumulato prima di me una situazione terribile, che è vero. Ma decide invece di continuare a rifinanziare e quindi a tirare fuori altri soldi, di prendere una decisione seria. Dice no, meglio punto e a capo. Allora, questa decisione, se assunta altrove sistematicamente, avrebbe ottenuto due effetti. Primo, non evitare situazioni che diventano terribili come l'ATAC, 1,6 miliardi di perdite in 10 anni, 1,6 miliardi di debiti, che continua a essere rifinanziata ma non cambia. Due ripiani finanziari e due ricapitalizzazioni negli ultimi 3 anni. E poi sarebbe un bel segnale per indurre gli amministratori di tutti i colori, di tutti i tipi, a evitare di fare pasticci. E comunque sarà Filippo Nogarin ai nostri microfoni alle 8:40, perché ovviamente c'è un consiglio comunale in subbuglio, qualche anche collega di partito che non dipendenti sciopero, il Turbini sciopero, l'accusa insomma non, e l'accusa soprattutto sotto traccia è politica al Movimento 5 Stelle. Vedete laddove poi governate ci sono solo casini, pasticci, guai, problemi. Ma altrove può essere stato. Ma mai come questa volta l'accusa mi sembra infondata. È infondata, però insomma l'accusa politica c'è sui giornali. Certo, insomma, certo. Il Movimento 5 Stelle, poi alla fine, quando si trova a dover governare, si trova a dover avere a che fare con i problemi. Però, oggi sul Sole 24 Ore, l'hai vista questa inchiesta di Claudio Gatti sulla questione delle armi? Che finiscono all'ISIS. L'abbiamo sempre detto, Qatar, Turchia, Arabia Saudita, però adesso nero cosa su bianco è dirlo, certo. È vedere appoggi documenti, come funziona, con quali tramiti. Allora io faccio questa grande provocazione. Allora forse ha proprio ragione quando Luigi Di Maio dice non bisogna più dare armi, non bisogna più fare affari con l'Arabia Saudita, con il Qatar. Capisco che è un argomento scivoloso, difficile, che non si può identificare tutta l'Arabia Saudita con coloro che finanziano l'ISIS, però qualcosa uno può fare oppure no? Beh, certo, l'intelligence dovrebbe esistere nei paesi occidentali proprio per verificare che se ingenti flussi di armi attraverso società, come spiega Claudio Gatti, che sono di copertura, diventano da forniture pubbliche, quelle che si realizzano facendo affari con questi paesi, no? Sì. Quando noi vendiamo le armi Arabia Saudita, però queste armi attraverso società di copertura vanno a non sarebbe il caso di non vendergliele più? È il caso di intervenire e dire: signori, noi vi mettiamo dei vincoli e non ve le diamo più. No, ma questo non c'è dubbio. Però il concetto, che si fa con la Turchia, per esempio? Non è che lo dice solo Di Maio, lo dicono gli altri. Di Maio lo dice con energia, poi si finisce per non farlo. Questo ma, è il punto. Ma io credo anche che poi dovesse il Movimento 5 Stelle governare oggi, sarebbe difficile farlo. Cioè, gli vai a dire: no, io in Arabia Saudita non metto piede. Ti immagini un presidente del Consiglio che dice: no, non metto piede in Arabia Saudita, perché succederebbe un caso diplomatico mondiale. Insomma, non c'è dubbio. Un conto è dirlo dall'opposizione, un conto poi è farlo. Però, non so, per esempio, sulla Turchia, che facciamo? Gli abbiamo dato 3 miliardi come Unione Europea ieri? Sì. E dall'altra parte diciamo che la Turchia però è un ventre molle per il terrorismo. E dunque? Ma noi che diciamo che è un ventre molle, dove l'hai visto che il governo italiano? Beh, no, nel senso, in tutte le inchieste si dice che c'è complicità. Il governo non lo dice. Ah, no, perché... No, scusami, stiamo alle politiche ufficiali. Infatti quello che manca è la coerenza, caro Alessandro. La coerenza. Però Putin fa molti affari con la Turchia, eh? Putin fa affari con... tutti, se usciamoci le cose come sta. Putin non si attiene a un codice come quello che stai invocando tu. Putin si accorge a un codice di potenza, quindi fa affari un po' come i cinesi con chiunque sia pezzo della sua strategia. Detto questo, mi ha colpito ieri la cosa più incredibile, l'atto più spietato di accusa contro gli errori degli Stati Uniti, dall'eliminazione di Saddam e la debattizzazione a Gheddafi, fino a non aver capito e aver armato attraverso l'Arabia Saudita, come spiega Claudio Gatti, il fondamentalismo sunnita. Pensa chi l'ha fatta: l'ex capo della DIA. La DIA è l'agenzia di intelligence militare americana, ex capo delle forze speciali in Iraq e Afghanistan, il generale Mike Flynn, che in questa intervista a Der Spiegel, secondo me bisognerebbe prendere quell'uomo e farlo segretario di Stato americano. E che ha detto? Ha detto: abbiamo commesso una serie di errori incredibili da quando non abbiamo capito, eliminando tutti gli uomini di Saddam, che cosa avremmo consegnato al terrorismo sunnita. Non abbiamo capito che l'intervento nei confronti di Gheddafi ha spalancato le porte della Libia al califfato. Non abbiamo capito che continuare a non vedere quello che fanno i nostri alleati sunniti, wahhabiti, in realtà alimenta esattamente questo stesso meccanismo. Stiamo commettendo un errore tragico, anche perché di fronte a questo l'America ormai deve dire: Putin, accomodati, perché tanto noi stiamo a casa nostra. Torno a dire però: le commesse poi vengono fatte con questi paesi, e mi rendo conto che è un tema molto spinoso, molto difficile da affrontare, come però, tutti i temi su questo terreno, perché non ci sono solo le commesse, significa dire no a tanti altri scambi commerciali. Cioè, in altre parole, la Turchia che in galera mette i giornalisti che danno le prove di come i parenti di Erdogan, il figlio, traffichino con ISIS, i direttori finiscono in carcere per questo, dei giornali che scrivono queste robe. Noi gli stiamo dando i soldi e gli diciamo che riapriamo il negoziato per entrare nell'Unione Europea. Allora, però, Cardinal Giannino, ti faccio sentire un'altra persona che col carcere dei giornalisti è una battuta, il Papa. È una battuta. Che abbiamo ascoltatori che ormai pensano che noi siamo pagati figurati, dalla sovversione atea. Figurati, domenica ero appunto tutta la giornata in oratorio con il mio parroco Don Davide, che saluto, e che mi ha detto: oh, ma mi hanno detto che mi hai difeso, perché quando abbiamo detto che i parroci non hai capito, si era preoccupato che l'avessi difeso contro la gerarchia. No, invece no, quando ho detto che Don Davide sicuramente sarà arrabbiato per tutto quello che sta succedendo conoscendolo, mi ha detto: oh, ma mi hanno detto che mi hai difeso pubblicamente, ti ringrazio, cioè mi hai difeso. E vabbè, insomma, comunque ti faccio sentire il Papa, perché ha parlato il Papa di tutto questo scandalo, no? Vabbè, ha fatto anche questa battuta su Francesca Sciauchi. Sentiamo una domanda dei giornalisti. Ora no. Cosa ha intenzione, come intende procedere perché questi episodi non si possano più verificare? Ma io ringrazio Dio che non ci sia la Lucrezia Borgia. Ma continuare con i cardinali, con le commissioni, a pulire. Al di là della battuta su Lucrezia Borgia, associata immagino a Francesca Sciauchi, immagino, vi ringrazio Dio che allora non... pensa anche in questo caso il Papa quanto è stato improprio. Cioè, Lucrezia Borgia, Lucrezia Borgia sta parlando di personaggi che sta nella storia nera, se vuoi negativa, sì. Però voglio dire, Alessandro VI Borgia, stiamo parlando di personaggi enormi nella storia, questi sono personaggi di quarto ordine, ridicoli di questa vicenda qua, ridicoli. Ah, però l'accostamento, voglio dire, la figlia legittima, l'accostamento dall'idea per un pontefice, insomma, mi ha molto colpito, non positivamente. Non positivamente, neanche in questo caso. E l'idea del pulire, cioè del pulire. Del pulire, vediamo. Se, tutti i papi che arrivano ci promettono questo stira e ammira, però per il momento vedo che i risultati non ci sono. Non ci sono ancora. Sicuramente non è colpa della loro volontà, che io apprezzo. Di sicuro la curia rimane una cosa complessa e che non si arrenda, per così dire. Del resto, sai com'è? Gli uomini sono fatti così, come De Luca. De Luca si fa aumentare lo stipendio da presidente della campagna. Ma questa io non l'ho trovata sui giornali, l'ho vista. Ma dove l'hai vista? Sul mattino di ieri, sul c'era, mattino. Nonché sul Corriere di oggi, no, Marco De Marco, Corriere del Mezzogiorno. Allora, ieri in Campania l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha deciso che i politici possono assumere i propri parenti, zii e nipoti, sì, negli staff e negli organi politici. Possono, non si poteva prima, no, però prima non si poteva. La novità è che si estende via i parenti che vengono assunti dalla politica e ha aumentato le retribuzioni, tra l'altro anche degli assessori e del presidente. Sì. E De Luca si è limitato ad assentire e a ringraziare. Però insomma, sottolineiamole queste cose. Tra l'altro c'è sempre l'invito aperto, presidente La Sicilia De Luca. Ieri bloccata, che non fa pagamenti perché gli mancano 550 milioni fino a fine anno, la Sicilia, malgrado le Unicredit ne abbia dati 270 milioni, e da ieri sono bloccati tutti i pagamenti sanitari, le prenotazioni di tutti i computer della regione, perché Antonio Ingroia, che da due anni è alla testa della società Servizi Informatici, nominato da Crocetta della Sicilia, siccome non vuole pagare 114 milioni esattamente ai privati che gestiscono la roba, si pensa da Aosta, e questi privati sono costretti a dire vabbè, allora vi sospendiamo il servizio. Sì è vero, mica solo la chiesa risulta che in Sicilia ci siano un po' tutti i sistemi informatici in questo momento saltati, quelli legati alla regione, però perché hanno dato 70 milioni a tutte le sagre dei santi, quelle le hanno date, quelle in passato ma adesso l'Unione Europea ce le richiede indietro. A proposito, non ce le richiede indietro, no, li pretende. Ho scoperto che non glieli dà, quindi resteranno di deficit aggiuntivo perché sono già stati spesi, caro mio. Ok, no, pensavo di dover fare per tutti una colletta per restituire, andare a Bruxelles a restituire 70 milioni. Ma tu hai visto questa maniera con cui Renzi si è infilato all'ultimo secondo nella grande kermesse del clima? Perché c'è un solo giornale dove l'ho letta, e voglio ringraziare l'autore, sulla Stampa, Roberto Giovannini, che dice: fino a domenica, domenica Renzi scopre che noi non siamo nel grande progetto internazionale Mission Innovation di Obama e di Bill Gates. Ma credo che sia servito questa la visita lampo da Hollande in Francia, cioè è andato da Hollande in Francia e forse gli ha strappato un invito al all'ultimo. Si sono dovuti inventare la promessa formale comunicata nottetempo alla Casa Bianca di questi 4 miliardi che oggi gli italiani si trovano sui giornali, annunciati da Renzi, spesi entro il 2020, per carità, sull'ambiente, per questo è una specie di biglietto d'ingresso a bordo dell'aereo del presidente Obama su Mission Innovation. Questa è la serietà con cui si prendono i grandi impegni internazionali sul clima, per essere chiari. Allora, intanto, caro Oscar, c'è già un'ascoltatrice proprio da Livorno, è Patrizia. Buongiorno, ci chiama da Livorno. Buongiorno. Come va con i rifiuti, Patrizia? Ma qui nella mia zona, onestamente, fino a ieri sera la situazione era abbastanza gestibile. Io non in altre zone del centro probabilmente un pochino meno, perché si vedono dalle foto, però qui da me onestamente per ora è gestibile. Io però volevo dire una cosa, non parlo perché sono stata un ex, ho sempre votato PD, per dire, quindi non c'ho da difendere Nogari né perché 5 Stelle, il PD che non voterò mai più in vita mia, questo è certo, ma questa volta io do ragione pienamente al sindaco. Il problema di questa municipalizzata, io credo che noi cittadini forse no, ma chi lavorava dentro, i sindacati che c'erano dentro lo sapevano già da anni. Per arrivare a un debito del genere, come mai sono sempre stati tutti zitti e vengono fuori tutti ora? Vabbè, questa è la classica storia di molte municipalizzate in Italia. Infatti, io spero che questa volta il Movimento 5 Stelle prenda una posizione veramente seria e non si faccia convincere. Non lo so come è andata la questione fino a ieri sera alle 11. Spero, come esempio a tutta l'Italia, io sono nel cuore di quella gente che lavora, di 40 precari, perché sinceramente è un grosso problema, però non si può andare avanti a accumulare debiti in questa maniera. Ma guardi, Patrizia, tra pochi minuti dopo la pubblicità avremo il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, ai nostri microfoni, quindi la invito, come invito tutti, ad ascoltare e capire quale sarà la ricetta del primo cittadino di Livorno. No? Brava la signora Patrizia. Allora, diamo gli Oscar. And the Oscar goes. so se dare l'Oscar alla città di Amburgo in Germania, ai cittadini di Amburgo o al sistema che permette, sistema quindi tedesco, che permette ai cittadini di Amburgo di andare a votare. Ma ad Amburgo hanno fatto un referendum, i cittadini hanno votato, hanno detto no. No a che cosa? Alla candidatura di Amburgo alle Olimpiadi del 2024. E anche la Merkel, che è contraria, cioè avrebbe voluto un sì, è rimasta insoddisfatta, ha detto oh, porca miseria, peccato, però vuol dire che i cittadini hanno votato e noi non ci candideremo, cioè Amburgo non sarà candidata alle Olimpiadi del 2024. Un gigantesco Oscar che vada in Germania, poi datelo a chi volete, se al sistema, se ai cittadini, non lo so. Ah, i cittadini che hanno votato. Sì, ma non tanto, non mi interessa il voto in sé, mi interessa il sistema che gli permette di decidere su una cosa del genere. A me piace anche invece il voto, per dire, siccome non sappiamo i costi, non vogliamo dubbi. Ah, beh, chiaro. Se pensi che a Roma si candida senza avere un progetto finanziario, tanto per capire. Quindi viva, viva. Condivido naturalmente la tua opinione in pieno da questo punto di vista. E invece il mio Oscarino, per così dire, un piccolo Oscarino, lo do a chi è stato capace di criticare quello che i giornalisti hanno fatto su questa roba del presepe di Rozzano in tutti questi giorni. Perché la storia è una storia sbagliata sin dall'inizio per come è stata raccontata dai giornali, e io credo che quel direttore scolastico abbia ragione a scrivere, lo ha fatto in maniera molto misurata, che forse molti di noi dovrebbero cambiare mestiere, perché tutto il caso di Rozzano, e quindi poi fino ai politici che vanno lì, la sfilata di ieri, Salvini, la Gelmini, nasce dal fatto che noi, pur di dividere, urlare, gridare, crediamo che questo sia ascolti, crediamo che questo sia copie, ci inventiamo cose che non stanno come stanno. I crocifissi non sono mai stati levati da quel preside, non è mai stata sospesa la cerimonia, eccetera eccetera. Il signor direttore scolastico ha detto no a delle mamme che volevano approfittare della pausa degli orari per andare a indottrinare gli studenti con nuovi canti, insegnare dei canti religiosi, perché la loro opinione i canti devono essere questi e veniamo, punto, questa è l'unica cosa che è successa. Mettiamogli l'Oscar, tusce. No. Tu lo cantavi, i giornalisti sono quelli che scendono dalle stelle. No, falla anche tu un'autocritica, perché noi stessi dobbiamo stare tranquilli un po' più. Io mi sveglio, mi guardo allo specchio e mi autocritico alle 5 del mattino. Capito. Tutti i giorni. Però, insomma, questo è il tu scendi dalle stelle. Va bene, dai, dopo la pubblicità state con noi. 800 24 00 24, il caso Livorno, anche il Movimento 5 Stelle alle prese con un governo, in questo caso di città, il sindaco Nogarin ai nostri microfoni. State ascoltando un programma offerto da San Martino di Castrozza, Passorolle, spettacolo e avventura tra le Dolomiti. Eccoci qui alle 8:39 minuti e 30 secondi, caro Oscar Giannino. Allora, sentiamo un ascoltatore, Sergio da Monza Brianza. Buongiorno Sergio. Sì, buongiorno a tutti e due, è un onore parlare con voi. Buongiorno, volevo intervenire semplicemente in merito alla questione della politica estera italiana. Sì. Cioè, mi sembra che ci stiamo comportando, e Marines non si discosta dal passato, non voglio fare nomi, ma nella solita situazione di sempre, cioè voglio dire, non prendiamo posizione, ci è stato chiesto di intervenire, io non sono interventista a tutti i costi, però abbiamo questa solita situazione melliflua per cui, come dire, sì, prendiamo le posizioni a voce, d'accordo, siamo tutti dalla stessa parte, dobbiamo intervenire, viva la coalizione, dopodiché quando ci si chiede un impegno concreto ci si tira da parte, si aspettano gli accadimenti. E probabilmente, ripeto, come si farà in passato non è neanche... Insomma, l'armiamoci e partite, mi sembra di poter dire. Lei critica questo al nostro... Se dobbiamo essere decisi, dobbiamo esserlo a tutti i costi, oppure dobbiamo essere decisi al contrario. Ripeto, io non governo, non sono nella posizione tale da poter dare la linea, però semplicemente questo stare un po' di qua e un po' di là credo che non ci faccia assolutamente onore, come al solito... ci dia il peso e la tara nello scacchiere internazionale. Va bene. Non da ultimo rispetto a quello che avete detto sulla conferenza del clima che si sta svolgendo a Parigi. Grazie Sergio. Ma anche perché la linea non è più armiamoci e partite, è armiamoli e partite. Sì. E armiamoli. Questa amaramente è così. Però tu, Oscar, hai sempre detto non si può andare a fare un qualcosa, imbarcarsi in un'avventura senza sapere che cosa fare dopo. E infatti, aggiungendo, dopo, bisogna quindi, come dice il nostro ascoltatore, degli delineare una strategia in assenza della quale tu non ti siedi a nessun tavolo. Cioè, se crediamo davvero nella cosa di Vienna, i colloqui di Vienna sono una linea che ex ante definisca cosa succede della Siria, bisogna dividerla per influenze prevalenti sunnita, sciita e così via, come abbiamo avuto l'errore di non aver fatto per l'Iraq, ecco, oppure che cos'altro. Quelle sono le cose che dico, bisogna avere chiaro come lezioni imparate dagli errori in Iraq. Le strategie. Vogliamo dare il buongiorno al sindaco di Livorno del Movimento 5 Stelle, Filippo Nogarin. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, caro sindaco, c'è questa grana dell'AMS, questo è l'acronimo, insomma, la municipalizzata che gestisce i rifiuti. Intanto ci può dire quanti debiti ha questa municipalizzata, così inquadriamo il fenomeno? Sì, dunque noi abbiamo fatto un bilancio che è stato approvato a giugno di quest'anno, che l'abbiamo chiamato bilancio verità, perché per la prima volta si va a mettere nero su bianco come stanno le cose. E 42 milioni di debito. 42 milioni di debito. Quindi lei, di fronte a questi 42 milioni di debito, ha deciso di aderire al concordato preventivo. Che cosa significa? Ce lo spiega? Certamente, il concordato preventivo è uno strumento che permette, tramite l'inserimento all'interno della struttura aziendale di un commissario nominato dal tribunale, di iniziare un percorso di ristrutturazione del debito secondo tutta una serie di criteri e tutele che dovrebbe permettere a tutti di avere garanzia, a tutti in particolar modo ai lavoratori, perché stiamo parlando di un'azienda che svolge un servizio essenziale per la città e che quindi in quanto tale non è possibile ovviamente farne a meno. Qua, sindaco, prima Oscar Giannino diceva l'avessero fatto tutti, l'avessero fatto all'Ataca, a Roma, cioè applaudiva l'iniziativa a dire finalmente una scelta politicamente coraggiosa. Ma certo, perché sottolinea che rispetto a continuare la gestione corrente di un sindaco che arriva nuovo, che non ha responsabilità di quello che trova, dei buchi, delle voragini, tu devi ricapitalizzare ogni volta. Prendi appunto l'Ataca, l'Ataca l'hanno ricapitalizzato due volte negli ultimi tre anni, e ha perso un miliardo e sei in dieci anni e ha un miliardo e sei di debiti. Se qualcuno a Roma avesse avuto il coraggio di esporsi anche alle critiche, perché è chiaro che se tu vai in concordato succede, chiaro, quello che succede, succede quello che i dipendenti succedendo. I sindacati sono terrorizzati, iniziano gli scioperi e così via, però questo è un atto di discontinuità che dice: cari signori, adesso con questa procedura straordinaria vedremo con quali asset dell'impresa far fronte ai debiti, ma è inutile andare avanti a ricapitalizzare levando altre risorse, certo, correnti, continuando, bisogna, con la discontinuità si rivede come si riorganizza la società. Però, è un atto di fronte al quale io sono sorpreso, lo voglio sottolineare, perché è rarissimo in Italia che si faccia. Però, esatto, sindaco, lei in mente ha che cosa? Cioè, perché questa discontinuità, dove secondo lei questo progetto dovrebbe portare? A privatizzare totalmente la società, a vendere qualche asset? Avrà in mente un piano? Io sinceramente, allora, privatizzare è proprio esattamente il contrario di quella che è la nostra linea politica, quindi assolutamente no. L'azienda è nelle condizioni di rimettersi in bonis secondo un percorso che a detta addirittura di un piano industriale, una bozza di piano industriale non ancora approvato dal Consiglio di Amministrazione e tantomeno dall'Assemblea dei Soci, però l'azienda a detta loro sarebbe nelle condizioni anche semplicemente con la ricapitalizzazione di tornare in bonus in due anni. Ora, io siccome non credo che attraverso la ricapitalizzazione si possa fare un percorso di questo tipo, un po' come ha detto anche Oscar Giannino poco fa, ma perché di fatto se non si vanno a fare interventi veramente importanti, ma quali? Ce li dica però. Gli interventi importanti sono il cambiamento di struttura. Voi dovete considerare che gli operai di questa azienda sono 1 su 4. Cioè, questa azienda è un'azienda che offre servizi alla città e ha apparato dirigenziale, quadri, addirittura hanno inventato un super quadro, non esiste in nessun'altra parte d'Italia. E poi gli operai, che sono quelli che veramente, cioè, quattro dirigenti e un operaio, ci sono quattro, no, tre dirigenti e un operaio, tre dirigenti e un operaio. Quindi cambiare questo, per esempio, lei, la ricapitalizzazione, quindi no, cambiare questo tanto per cambiare, non è una roba da niente, cioè che fa, prende i dirigenti, prende i dirigenti, li sposta i dirigenti. Vabbè, questo lo vedremo, cioè chiederemo a loro attraverso un concordato di fare un percorso. Quello che so è che se questa è un'azienda che è il 100% del comune di Livorno, i dirigenti del comune di Livorno sono pagati X e i dirigenti della municipalizzata del comune di Livorno sono pagati X per due. Caro Alessandro, capisce i guai che si ritroverà sindaco, decenni di municipalizzato. Io sono un sindaco scomodo e normale, mi stanno offendendo in tutti i modi possibili e immaginabili. Io non sono venuto qui per tagliare nastri. Io sono venuto qui perché sapevo perfettamente che questa era una situazione disastrosa. Ammiriamo questo coraggio, però sindaco si ritrova i netturbini in sciopero, parte anche pezzi del Movimento 5 Stelle, un assessore, si dice, tre consiglieri, insomma, che potrebbero lasciare. Cioè si ritrova consigli comunali con malori, insomma, è una situazione politica difficile. E l'accusa di non saper governare, quindi. Ma questo sono tutte situazioni che vanno governate e quindi le affrontiamo una per volta per quello che poi sarà. Signor sindaco, ma non è che dipende anche dal fatto che saper governare significa tenere insieme pezzi di sistema consociativo? Perché in realtà le municipalizzate sono a questo punto, perché i partiti dominanti... Allora io però devo dire una cosa molto chiara. I lavoratori non sono in sciopero e c'è la città sottosopra. Allora, qui il garante dello sciopero dovrebbe dire qualcosa, perché voglio dire, se questi sono in assemblea permanente, sono in stato d'agitazione, ma nessuno esce per fare il servizio, qualcuno dovrà pur dire qualcosa, perché allora, se no finisce che tutti fanno quello che cavolo vogliono. Lei vorrebbe un intervento del garante degli scioperi. Io sono uno che tutela le forme di lotta da ogni punto di vista, ma le forme di lotta devono rimanere all'interno di un percorso, perché sennò non sono forme di lotta, ma nei servizi pubblici essenziali va garantito, ma questo è nelle leggi attuali, quindi lei secondo me fa bene a chiedere il servizio pubblico. Quindi lei dice, sindaco, vorrebbe garantire forme di lotta, ma i netturbini vadano a raccogliere la spazzatura, questo sta dicendo? Ma no, ma io dico semplicemente che loro sono strumentalizzati, perché se comprendessero dove sono stati seduti fino a ieri, avrebbero tutto l'interesse ad appoggiare un percorso condiviso con il socio unico che vuole in tutti i modi tenere in piedi questa azienda. Io ho fatto delle dichiarazioni importanti: noi non vogliamo privatizzare l'azienda, la vogliamo tenere a noi, è un gioiellino del comune di Livorno e lo vogliamo tenere, non lo vogliamo svendere. E questo non vuol dire niente. I debiti sono per inefficienza, ma i lavoratori sono delle persone straordinarie, sono la vera forza di questa azienda. Però sindaco, vanno valorizzati. Io una cosa non l'ho capita. La ricapitalizzazione no, e questo lei l'ha detto. Privatizzare no, e questo lei l'ha detto. Ci faccia capire se ha in mente un qualcosa di concreto per una terza via. La sua terza via qual è? Una ristrutturazione del debito da fare con tutto l'indotto e poi cercare in qualche modo, attraverso quello che sono le situazioni di rinegoziazione interne con l'apparato dirigente, con quello che si deve rendere conto che di fatto uccide l'azienda. Cioè, paradossalmente gli interessi di pochi sono quelli che distruggono la collettività. Ora ci troviamo ancora una volta nella situazione in cui si andrebbe a chiedere alla collettività di pagare i debiti di chi ha generato questo buco di 42 milioni di euro, che noi abbiamo ereditato, ce lo siamo trovati lì, abbiamo impiegato 10 mesi per fare tutto quello che era possibile fare e mettere. Prego? No, per identificare questo certamente, perché non è stato neanche facile, perché non è così immediato, non è che un'amministrazione entra e tempo zero nelle condizioni di avere tutto il quadro sotto controllo, e questo è quello che è venuto fuori. Qui, Oscar, come finirà questa vicenda politica? Perché se il sindaco, come mi sembra, poi bisogna vedere, però ha il fegato di continuare a esporsi alle reazioni di un sistema consociativo che per tanti anni, in questa come in tante altre municipalizzate, ha detto a tutti: ma non vi preoccupate, è una greppia, tanto continueranno a finanziarci. Se continua a tener duro diventa un esempio. Poi io non è che sono d'accordo su tutto, dico che è il metodo che mi interessa, perché io dico, alla tua domanda si risponde anche vedendo qual è il totale degli asset detenuti dalla società, alcuni si cedono, si entra dei debiti, il sindaco magari difende un'altra strada e dice: e con più efficienza, che io la tengo tutta pubblica, benissimo, ma quello che mi interessa è il metodo. metodo. E la durezza della reazione, non sto parlando del dissenso dei 5 Stelle, che magari sono preoccupati che si privatizzi, sto dicendo i sindacati, il PD, eccetera, quelli che hanno costruito, che in altre città magari sono di altro colore politico, ma il metodo è lo stesso. A quel punto ti fomentano la gente contro, perché dicono: ah, vi vogliono mettere sulla strada, vi affamano. E invece bisogna dire: no, cari signori, adesso rispondete a tutti di quello che però dovete fare. Però è interessante, per concludere, sindaco Nogarin, il PD critica duramente. Le facciamo sentire, visto che Oscar diceva... Mi permettete di dire una cosa? No, aspetti, però le facciamo sentire una cosa, perché Oscar ha citato amministratori di altre città. L'ex assessore Esposito a Roma critica così lei, Nogarin, sente? A Livorno succede una cosa semplice, che quando ti tocca governare ti tocca affrontare i problemi, e se non sei capace fai guai. Ma a me ha fatto molto ridere. Ecco, poi vabbè, insomma, adesso poi va avanti. Allora, Nogarin, cioè, non siete capaci di governare, dice Esposito. Esatto. Ecco, loro invece sono stati capaci. Esatto, l'attacco di Roma, la municipalizzata più scassata d'Italia, dai. Sì. Vabbè, dica cosa risponde alle critiche? Dicono addirittura che verrebbe il ministro Boschi, ho letto oggi sul Fatto Quotidiano, per rinforzare... Ma figuriamoci, non lo so, l'ho letto sul Fatto adesso. Guardi, no, io dico soltanto questo, cioè quello che mi fa veramente indignare è il fatto che i sindacati e il Partito Democratico, che hanno generato, perché sono stati loro a generare questa situazione, è inutile che adesso si mostrino con le manine pulite, questa cosa si è generata negli anni, 42 milioni di debiti li hanno fatti loro, il Partito Democratico che ha creato tutto questo sistema che ha governato qui. Quindi è inutile che adesso facciano le vergini, qui loro si devono assumere le responsabilità, perché ancora una volta, se no, finisce che come al solito i debiti li devono pagare i cittadini, e i colpevoli di un sistema del genere non pagano, e questo è un male esempio che non può continuare così in questa nazione. Allora, chi ha sbagliato deve pagare. Allora, sindaco, noi terremo sott'occhio questa vicenda, intanto la ringraziamo molto per essere stato con noi, Filippo Nogarin, sindaco di Livorno del Movimento 5 Stelle. Caro Oscar, è una vicenda che promette anche scintille, ma interessante, vivace, mi sembra ci saranno delle belle puntate. Per il PD prendere schiaffi di questo tipo non è male, non sono abituati nell'Italia di centro, per così dire. No, non sono abituati. Beh, in questo momento però anche il Movimento 5 Stelle lì è un po' in difficoltà politica, perché deve gestire questa cosa. Perché si trova a dover gestire uno stile di governo che non è associativo, capito? Non è che governare e non beccare proteste, Alessandro, governare è fare scelte così incisive che esplodono tutte le consociazioni italiane. Questo è il punto. E questo noi lo verificheremo. Allora ci troviamo domani. Grazie a tutti, a domani. Alino e Giannino, e come quel gattino che di primo mattino ti viene vicino e poi.